secondo appuntamento della settimana, seconda puntata quindi di Hard and Heavy, la quarta se siamo nella giornata di giovedì, e quindi seguite questa replica. La voce è quella di Marco Gravelli, siete su Rock FM, sta per partire lo spazio di Hard and Heavy dedicato all'hard rock, metal e tutti i suoi sottoderivati, più o meno naturalmente, offerto giorno dopo giorno dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 da Mariposa Dischi, corso Lodi numero 1 qua a Milano. Il mio saluto e ringraziamento va come sempre a Simone che mi prepara sera per sera le scalette e la tracklist, e con la prima parte come sempre dedicata a grossi e anche a meno grossi nel senso di notorietà di band che hanno fatto la storia del mondo hard rock e di metal. Partiamo con gli americani Black and Blue, esordio che arriva nel 1981, perlomeno la nascita della band, e nella quale c'è da segnalare che il cantante James & James è l'attuale cantante degli Warrant, mentre il chitarrista Tommy Tyre è l'attuale chitarrista dei Kiss. La loro carriera comincia quando furono notati dal proprietario della Metal Blade, che è un'etichetta discografica, che gli permise di partecipare alla compilation Metal Massacre del 1982. Sempre in quell'anno registrano il loro primo EP, prodotto da Don Dokken e da Michael Wagner, che gli valse un contratto discografico. Siamo nel 1984, arriva finalmente l'album d'esordio, che si intitola semplicemente come il loro nome, Black and Blue, e che gli valse date di spalla a Ronnie James Dio e Whitesnake. Il secondo album si intitola Without Love, uscì l'anno seguente, 1985, e andarono in tour con i Kiss. Gene Simmons si occupò quindi della produzione del terzo album Nasty Nasty, che irritò la loro etichetta per le sonorità troppo pesanti, e con lo scarso risultato ottenuto dal quinto ed ultimo album intitolato In It, che il gruppo praticamente si scioglie nel 1989. Alla fine del 1997 i Black and Blue si riuniscono per un concerto che viene registrato per un live album uscito l'anno seguente. Seguirà un altro live nel 2001 e la pubblicazione di diverse raccolte. L'ultima è uscita sul mercato lo scorso anno e si intitola Rarities. Andiamo ad ascoltare il pezzo che chiudeva il loro primo album, Chains Around Heaven, che era anche la canzone con la quale hanno partecipato alla compilation Metal Massacre del 1982. Sono i Black and Blue. We'll be right back. album ad esordio dei Black and Blue, pezzo che chiudeva il lavoro Chains Around Heaven. Su questo album trova spazio anche una cover di un classico degli Sweet dal titolo Action. Andiamo in Svezia, andiamo ancora nel passato, una delle primissime, pensate, heavy metal band svedesi ad avere un certo successo. Siamo addirittura alla fine degli anni 70, primi anni 80, con gli Heavy Load. Nati nel 76 grazie ai due fratelli Valkvist, uno cantante chitarrista, l'altro cantante batterista. Alle spalle hanno tre album in studio e un EP. Esordio arriva nel 78 con Full Speed at High Level e dopo un EP sono arrivati al secondo Death or Glory del 1982. Il terzo album è del 1983, si intitola Stronger Than Evil e poi la band si scioglie. I due fratelli sono quindi diventati produttori, oltre a possedere uno studio di registrazione proprio in Svezia. Il pezzo che vi presento si intitola Il Re, cioè The King, dal loro terzo e ultimo album Stronger Than Evil, la formazione svedese degli Heavy Load. loro terzo e ultimo album, poi il gruppo si è sciolto, dalla Svezia gli Heavy Load. Siamo nel 1983 con questo album Stronger Than Evil, il pezzo si intitola The King. Ritorniamo un po' ai giorni d'oggi con la band di Genova dei Necrodef, pubblicato lo scorso ottobre su Scarlet Records l'album Draculia. Per questa formazione genovese attiva dal 1984, nell'87 arriva il loro album d'esordio Into the Macabre. La band ha avuto un lungo periodo di pausa, ben 10 anni dal 89 al 99, anno nel quale si è riformata con un nuovo cantante e un nuovo bassista. Questo Dracula è un concept album registrato presso gli Outer Studios in quel di Roma e poi masterizzato in Svezia. Per quanto riguarda la lineup, nell'album le parti di chitarra sono state suonate da Pier Gonnella dei Labyrinth, mentre successivamente è entrato in pianta stabile il nuovo chitarrista Max con la doppia X. Andiamo a proporli con il brano dal titolo Countess Bathory. Dall'album Dracula, la formazione è quella dei Necrodef. Dall'ultimo Draculia per la formazione genovese dei Necrodef che oggi abbiamo ritrovato. Ritorniamo indietro nel tempo, andiamo in America con il gruppo creato dal batterista, una delle tante band in cui lui ha suonato, Carmine Appice, nel 1984 insieme al cantante Mark Free, che in seguito è entrato a far parte di un ottimo gruppo che ha pubblicato un solo album, cioè Signal, grande lavoro, e poi ha cambiato sesso, è diventata donna e si chiama Mercy Free, perlomeno si fa chiamare così. Al lineup ultimata ottengono un contratto con la Capitol Records, che ne pubblica l'album d'esordio Ready to Strike nel 1985, che ebbe un buon seguito. Non fu così per il secondo Thrill of the Lifetime, che gli fece perdere il rinnovo con l'etichetta. Seguono quindi l'abbandono del cantante Mark Free ed altri cambi di lineup. Il suo posto viene preso da Johnny Edwards, ex Montrose, e con lui pubblicano il terzo album, King Cobra Free, del 1988. Dopo la pubblicazione però la band si scioglie. Soltanto nel 2000 Epis, o Epis, eccetera eccetera, chiamatelo un po' come volete, riforma i King Cobra con un nuovo cantante, cioè Kelly Feeling dei MSG, ed altri nuovi musicisti. Con loro incide il quarto album, intitolato Hollywood Trash, al quale però segue poi il definitivo scioglimento. Oggi noi prendiamo in esame il secondo, Thrill of a Lifetime. Siamo nel 1986. La lineup vedeva, oltre a Dappis alla batteria, Mark Free alla voce, il bassista Johnny Rodd, che in seguito entrerà negli Wasp, il chitarrista Mike Sueda, che abbiamo citato e ascoltato ieri sera con i Bullet Boys. Quindi una super band. Anche chi compone le canzoni, come in questo caso, andiamo ad ascoltare il brano intitolato Dream On, firmato da Russ Ballard. La formazione è quella dei King Cobra. Si intitola Dream On, questo brano firmato, come vi dicevo, da Russ Ballard, interpretato dal supergruppo dei King Cobra, il loro secondo album era Dream On. Rimaniamo ancora negli States, però cambiamo genere. Gruppo che proponeva thrash metal, si chiamavano Abattoir o Abattoir, perlomeno la scritta è Abattoir. Hanno pubblicato due album e in questo, nel quale, nel primo album, il chitarrista Juan Garcia ha suonato e in seguito è poi entrato negli Steel Attack, band nella quale ancora milita. Riguardo al gruppo, nascono nel 78. Il primissimo cantante era John Creese, che ancora prima dell'esordio, diciamo, lascia il gruppo per entrare anche lui negli Steel Attack, con il quale incide un EP e i primi due album. Gli Abattoir, dopo aver partecipato alla compilation Metal Massacre volume 4, arrivano all'esordio nell'85 con l'album Vicious Attack. Segue poi un triplice cambio di line-up con la sostituzione del cantante, del secondo chitarrista e del batterista. Segue poi ed esce questo secondo album, The Only Safe Place. Poi arriva lo scioglimento. Nel 98 la band si è riunita in occasione della ripubblicazione dei due album ad opera della Century Media e hanno anche registrato un terzo lavoro dal titolo Evil Incarnate, che poi è uscito nel 2004 come EP dal titolo From the Ashes. Dal loro secondo album The Only Safe Place andiamo a proporre quindi gli Abattoir con il pezzo che apriva l'album, intitolato Bring On Demand. We're gonna make it. lines bound your shadows, trying to get back to you. Trying to unwind the hands of time, trying to find where it all. I'm missing you. Still pretending I'm the one who was willing to wait forever, trapped inside the street. Oh, my. Iniziamo con questo ballatone, la seconda parte del nostro appuntamento del martedì, replicato il giovedì, su Rock FM con la voce di Marco Gravelli, con Arden Daly. Molto toto questo brano, del resto è firmato proprio da Steve Lukather, il chitarrista della band. È un album solista per naturalmente questo celebre, noto, bravissimo chitarrista americano. Vanno sottolineate le sue collaborazioni anche con grandissimi artisti del mondo pop come Elton John, Michael Jackson, eccetera. La sua carriera solista è cominciata nell'89 con l'omonimo album, mentre l'ultimo lavoro in studio era uscito nel 2003. Alla fine di questa settimana invece verrà pubblicato questo Ever Changing Times, dal quale vi ho proposto Never Ending Night, su etichetta Frontiers Record. L'album porta proprio il marchio di Steve Lukather, che è anche il produttore del lavoro, Every Changing Times. Andiamo invece alla prossima band, si chiamano Deliverance. Esce questa settimana il 13° album, si intitola As Above So Below, per questa storica Christian Thrash Metal Band. Questa è un po' la cosa strana, propongono thrash metal, però sono a livello di presenza e di testi cristiani, appunto, da qui Christian Thrash Metal. Il gruppo nasce nella seconda metà degli anni 80, l'esordio arriva alla fine degli anni 80, nell'89, con l'omonimo album. Da segnalare che il loro secondo, Weapons of Our Warfare, è considerato il loro lavoro migliore. Qui siamo al 13°. Sono stati molti nei corsi degli anni nei cambiamenti di formazione, tanto che l'unico elemento originale è il leader Jimmy Brown. I Deliverance si erano infatti sciolti nel 95, si sono riuniti nel 2001 per pubblicare un nuovo album. Segue un altro lungo periodo di pausa, sino a quando nel 2006 Jimmy ha riformato la band e a 7 anni dal precedente lavoro viene pubblicato questo As Above, So Below, che presenta in totale 9 brani. Noi andiamo ad ascoltare il brano intitolato Screaming. Inside, so round the walls. from me. Oh, will I once again meet the black and empty stairs? Screaming out in... Si intitola Screaming dall'album As Above, So Below, tredicesimo lavoro in carriera per questa formazione americana dal nome Deliverance. Arriverà nei negozi proprio alla fine di questa settimana, questo weekend, per i Deliverance. Parliamo invece dei Chimera. Alla fine di questa settimana, anche in questo caso, viene pubblicato il terzo album per questa project band del tastierista italiano, il bravissimo Daniele Liverani, che lo scorso anno avevamo ritrovato con i suoi Genius, oltre che a far parte degli Empty Tremors. Questo progetto risale al 2003 con l'omonimo album, dove alla voce c'era il bravo Steve Walsh. Per il secondo lavoro, del 2005, New Promise, Walsh era troppo impegnato, così come vocalist era stato scelto Dennis Ward, noto per essere il cantante dei Pink Cream 69, oltre che essere un grande produttore. Così è anche per questo terzo lavoro, dal titolo The Greatest Wonder, che oltre a Dennis Ward come cantante bassista, vengono confermati Dario Ciccioni alla batteria e Tommy Ermolli alla chitarra. Ci sono 12 brani in totale, ottimo AOR, come il precedenti progetti, appunto Genius, che abbiamo già citato. Il progetto in questione si chiama Chimera e andiamo ad ascoltare il brano Beautiful Life. I've been dreaming Dance World alla voce, il progetto Chimera del bravissimo tastierista romano Daniele Liverani. Abbiamo ascoltato da The Greatest Wonder, Beautiful Life, e arriva anche per questa sera l'appuntamento con le Metal News. Parliamo dei Venom, il nuovo album che era previsto a livello di pubblicazione lo scorso anno, poi rimandato, si intitolerà Inferno, Hell, e verrà pubblicato in maggio, ci saranno 13 brani. I Camelot il 31 di marzo ripubblicheranno il loro ultimo lavoro, Ghost Opera, con un titolo nuovo, Ghost Opera, la seconda uscita, The Second Coming, si presenta come un doppio CD. Nel primo CD troviamo l'album pari pari come era più i due video, mentre il secondo sarà un live registrato a Belgrado composto da 10 tracce. Vicious Rumors ha reso noto il nome del nuovo cantante che va a sostituire James Rivera, che è tornato negli Hellstar. Si tratta di Ronnie Stix con la doppia X, che ha militato nei Divine Ruins e negli Shadow Keep. Nel frattempo proseguono le composizioni delle nuove canzoni per il prossimo album. Il gruppo danese dei Raunchy o Raunchy usciranno il 30 di giugno, loro propongono dell'ottimo new metal, con il quarto album dal titolo Wasteland Discotheque. Si parla invece ora degli Amorphis. Lo scorso 15 febbraio la band finlandese è uscita a fine agosto con il loro ultimo album Silent Waters, ha ricevuto il disco d'oro proprio in Finlandia per le vendite di questo album, e a livello statistico, si è rivelato il 34esimo album più venduto in Finlandia nel 2007. E proprio da questo album, che a dire il vero l'avevamo già segnalato all'epoca quando l'abbiamo presentato, è veramente molto bello, molto valido, andiamo a proporre appunto da Silent Waters gli Amorphis con le note di questa Towards and Against. Such losers, man. bravi, un bellissimo lavoro che era uscito lo scorso agosto per gli Amorphis, che oggi abbiamo ritrovato nel corso del nostro appuntamento di Hard and Heavy, che è quasi arrivato al termine. Parliamo di questi finlandesi, gruppo a 5 elementi, propongono dell'ottimo melodic metal, si chiamano Leverage, avevano pubblicato solo per il mercato finlandese un lavoro, il primo, d'esordio dal titolo Tides, che è arrivato al numero 38 in Finlandia, e da quell'album era stato scelto anche un brano, cioè Superstitions, come sigla del campionato mondiale di hockey su ghiaccio. Ora viene pubblicato anche in Italia dalla Frontiers Record, che ha ristampato anche il precedente lavoro, quello che era uscito solo per il mercato finlandese, per questa band. Si chiamano Leverage, il nuovo album si intitola Blind Fire, ha già avuto ottimi consensi da parte della critica, e noi li ascoltiamo con le note di questo pezzo dal titolo Sentenced. Sail danced. Why couldn't you just turn and walk away? secondo album dal titolo Blind Fire per i finlandesi Leverage. Questa era Sentenced. E arrivo alla chiusura del nostro appuntamento di questa sera di Hard and Heavy con la prossima band che arrivano dalla Germania, il loro album d'esordio pubblicato per l'etichetta Drakkar Records. Musicalmente ricordano qualcosa dei Pantera, cantano in lingua madre, quindi in lingua tedesca, si chiamano Grantig. Io ringrazio a questo punto naturalmente il nostro sponsor, Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano, Simone il nostro autore. Dedico questa canzone a Claudia che arriverà, dovrebbe annunciarla lei perché io non ne capisco una mazza di tedesco. Ci provo. Wir haben nicht, questo è il titolo del brano, dall'album Somus Essayn. Si chiamano Granting. A domani, ciao ciao.